L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati in una nuova puntata dell'Altro Pianeta, nella quale ci domandiamo un po' se è possibile salvare capra e cavoli, cioè se è possibile salvare il pianeta senza rimetterci da un punto di vista economico. Bene, la risposta è sì, questo è possibile anche senza drastici interventi. L'unico vero intervento da fare è un buon inventario e poi un'analisi dei risultati ben fatta, e a quel punto la soluzione sarà quasi a portata di mano. Per darvene una prova, oggi vi raccontiamo il caso della Università Milano Bicocca, che ha accettato la proposta del centro di ricerca Polaris, che ha sede nella stessa università presso il Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio, di analizzare la propria carbon footprint. Che cos'è la carbon footprint? È l'impronta di carbonio, la misura dell'impatto che le attività umane hanno sull'ambiente espressa in quantità di CO2 equivalente prodotta, quindi in termini di quantità di gas serra prodotto. Il progetto di ricerca è rientrato poi in un accordo volontario tra il Ministero dell'Ambiente e l'Università di Milano Bicocca per la promozione di iniziative dedicate appunto alla ricerca di metodologie di calcolo dell'impronta di carbonio. Sono 28 gli edifici di questa università, sono sparsi su 290.000 metri quadrati, 33.000 sono gli iscritti, diverse centinaia quindi i docenti e i non docenti che lavorano nell'Ateneo. Alcuni sono già stati coinvolti nel progetto, altri lo saranno in futuro, ma vediamo un primo bilancio a un anno dall'inizio dei lavori. Candeloro Bellantoni è il direttore generale dell'Università Milano Bicocca. Ci è stato proposto di fare lo studio appunto della carbon footprint dalla professoressa Camatini, che appunto fra l'altro è il direttore del centro Polaris. Per convincerci hanno fatto uno studio preliminare, uno studio campione sull'impatto di emissione di CO2 di un edificio. Vedendo i risultati ci hanno convinto che era importante procedere per fare, diciamo, la carbon footprint di tutta la nostra attività, perché ci siamo convinti, non solo per motivi ambientali, ma perché questo, abbiamo capito, poteva avere anche dei risvolti economici, perché conoscendo meglio appunto quali sono, diciamo, le cause delle nostre emissioni, possiamo ottimizzare, noi ci siamo convinti che in questo modo possiamo ottimizzare il nostro, chiamiamolo, ciclo produttivo. E quindi per questa ragione abbiamo deciso di finanziare l'intero progetto e di finanziare il progetto per estendere appunto questa mappatura a tutti i nostri 28 edifici, perché siamo convinti che conoscendo bene le cause delle emissioni possiamo da un lato ottimizzare, ripeto, quindi ottenere delle economie importanti che contiamo di reinvestire sia in politiche ambientali che in progetti di ricerca. E poi anche perché questo ci dà delle informazioni importanti per una migliore anche, pensiamo, gestione dei nostri servizi, perché ad esempio abbiamo scoperto grazie a questo progetto che molta dell'energia i nostri edifici la consumano quando sono fermi, e quindi un'eventuale maggiore apertura degli edifici, che quindi con allungamento dei servizi universitari, biblioteche e quant'altro, che ci tratteneva per il fatto che pensavamo avesse dei costi importanti aggiuntivi, ci siamo accorti che così non è, e questo ci sta aiutando a fare anche questo tipo di riflessione. Il lavoro è partito quando? Allora, il lavoro sperimentale è partito, il primo progetto fatto su un edificio, un anno fa. Poi c'è stato alcuni mesi di pausa per valutare e decidere se finanziare il tutto, è partito qualche mese fa, contiamo di avere dei risultati, alcuni già li abbiamo, per gennaio. Coinvolgimento degli studenti in tutto questo processo, come avviene, che riscontro ha anche? Sì, allora, il coinvolgimento in questo, diciamo, nella fase iniziale non c'è stato, comincia adesso. Noi lo stiamo coinvolgendo in parte alcuni studenti attraverso lo strumento delle collaborazioni studentesche proprio nella raccolta dei dati, ma poi contiamo di coinvolgere sia gli studenti ma anche il personale docente e tecnico amministrativo, contiamo di sensibilizzarli con insegnando comportamenti virtuosi che aiutino a ridurre l'impatto. Quindi noi contiamo di sensibilizzarli in questo modo. Lo stiamo già facendo anche attraverso un migliore sistema di raccolta dei rifiuti, perché anche questa rappresenta una ricchezza, ma principalmente ci siamo mossi per rendere, diciamo, più ospitali, più agibili i nostri locali, perché abbiamo visto che era necessario razionalizzare meglio la raccolta, perché avevamo dei punti in cui avevamo i contenitori di raccolta dei rifiuti vuoti, altri stracolmi, o peggio, vedevamo in taluni punti che nascevano dei punti di raccolta spontanei, cioè qualcuno abbandonava dei contenitori vuoti e questo generava l'abbandono di altri. Quindi in questo contiamo di coinvolgere i nostri studenti, lo stiamo già facendo e contiamo di farlo ancora di più. Eccoci di nuovo per la seconda parte dell'Altro Pianeta. Nella prima abbiamo parlato di carbon footprint, impronta di carbonio. Ora parliamo, come dicevamo, di uso del suolo. Dalla tundra del nord alla macchia mediterranea, l'Unione Europea si estende su un territorio vastissimo che è diverso ovviamente per flora, fauna, ma anche popolazione, impieghi. Come viene utilizzato questo suolo? Quanto è costruito? Quanto è coltivato? Quanti boschi ci sono? La risposta a tutte queste domande, ma anche a molte altre, sta nel rapporto che è stato recentemente pubblicato da Eurostat in base alla ricerca LUCAS. LUCAS è l'acronimo di Land Cover and Use Survey, cioè indagine su copertura e uso del suolo. Alessandra Palmieri è la team leader del LUCAS ed è stata intervistata da Gigi Donelli e sarà lei a spiegarci appunto come viene utilizzato il suolo in Europa e in Italia. Il territorio dell'Unione Europea si tratta di 4 milioni e 300 mila chilometri quadrati che si estendono dal 35esimo al 64esimo parallelo. L'Italia in tutto questo è il settimo paese per estensione, quindi un 7% del territorio dell'Unione Europea è rappresentato dall'Italia. 40% del territorio europeo è occupato dalla foresta, un altro quarto è territorio coltivabile. Abbiamo un 20% di prato e un 5% di aree artificiali, intendendo con questo sia le aree che sono costruite, sia la rete dei trasporti, i parcheggi. Questa è comunque una componente importante dell'area artificiale, perché due terzi in media in Europa del territorio artificiale viene occupato da queste aree che non sono costruite ma comunque asfaltate. Vorrei, prima di parlare dell'Italia, le chiedo di soffermarci ancora un istante sul rapporto verde urbano, o meglio verde versus urbano. Quindi ci può ricordare quanta parte, intanto è un dato che soprattutto per chi, diciamo, vive nel sud dell'Europa, sentire che il 40% di 4 milioni e mezzo di chilometri quadrati è foresta, per carità, poi pensiamo alla Svezia, pensiamo al nord, però insomma colpisce. Allora le chiedo ancora una volta, la parte urbana quanto occupa dello spazio complessivo europeo? Allora, parte urbana e rete autostradale, rete stradale, ripeto, queste infrastrutture del trasporto anche sono importanti perché sono incluse in questo 5%, e la parte artificiale sono circa, in valore assoluto, sono quasi 200.000 chilometri quadrati, sono un 5% del territorio dell'Unione Europea. Quindi potrei dire solo il 5%? Potremmo dire solo il 5%, quello però di cui dobbiamo tenere conto, più che l'aggettivo solo, è dovremmo tenere conto della densità di popolazione, cioè mettere in relazione i paesi che hanno un tasso di suolo artificiale più alto con quella che è poi la loro la densità per abitanti per chilometro quadrato, e i 7 paesi che in effetti hanno un territorio artificiale superiore alla media europea sono i 7 paesi in Europa che hanno una densità di popolazione maggiore. Allora, dottoressa Palmieri, io non ho i dati sotto gli occhi, ma mi spingo, come dire, a fare un'ipotesi. Immagino la Ruhr, immagino la Germania, immagino l'Olanda, cioè quell'area d'Europa in cui anche fisicamente, spostandosi da un'autostrada all'altra, insomma, si percepisce la pressione demografica. È così oppure ci sono delle sorprese in questo senso? No, sorprese non ce ne sono, perché guardando così il quadro comparativo offerto dalla tabella che è uscita nella news release l'altro venerdì, vedere che al primo posto abbiamo i paesi del Benelux, dove c'è una densità di popolazione molto alta, non ci sorprende affatto. Si può conservare, e gli Stati europei in questo senso sono stati in grado di, diciamo, di tutelare almeno in parte il verde, l'area forestale, a fronte di alta densità demografica, oppure è nella pratica impossibile? Questa è una domanda più politica che tecnica. Non intendo politicamente, intendo in termini di numeri, di statistiche. Cioè c'è una correlazione stretta tra la demografia e lo spazio verde a disposizione, quindi. Diciamo che c'è una correlazione abbastanza stretta tra densità di popolazione e tasso di artificiale. Poi quello che è interessante vedere è un dettaglio regionale, che però adesso per il momento non è ancora disponibile da questi dati. Questi sono risultati preliminari. Quindi avremo dettagli in questo senso, la ringrazio. Sì, questo qui tra qualche mese. Va bene. E volevo ricordare un'altra parte del patrimonio informativo dell'UCAS che è riferito all'archivio fotografico. Cioè quando il rilevatore va in campo, oltre ad osservare i parametri ambientali, scatta delle fotografie al paesaggio nelle quattro direzioni cardinali, e questo archivio fotografico è accessibile per gli utenti, è gratis, si può andare sul sito di Eurostat e si possono verificare le zone di interesse e eventualmente avere a disposizione le foto. L'Europa in immagine, lo faremo. L'Europa senz'altro. In immagine, sì. Benissimo, lo faremo. Allora, adesso direi che veniamo all'Italia. Abbiamo ci ha dato, e la ringrazio, un quadro complessivo. L'Italia, ovviamente, ecco, innanzitutto abbiamo tanto parlato di foreste, sarebbe interessante magari partire dal dato foreste sull'Italia, che lo ricordiamo sul complesso europeo è 40% per l'Italia? Allora, 41% per l'Unione, per i 27 paesi, ed è foreste, cioè aree boschive è un 35%. Io comunque tenendo conto del paesaggio italiano e delle caratteristiche proprio anche orogenetiche, farei un'aggregazione, cioè considererei la zona boschiva e la zona di arbusti di macchia mediterranea insieme, sia a livello europeo che per l'Italia. E si vede in questa maniera che diciamo l'Italia ha un 40% tra boschi e macchia contro il 45% della media europea, quindi siamo sotto un 13%. Quindi questo è un primo dato, siamo primo al di dato. Sotto, certo l'Italia ha anche un rapporto superficie demografia che non è tra i più vantaggiosi rispetto alla Francia, per non parlare della Polonia, ma insomma, allora l'Italia ci dia un quadro, qual è la situazione? Oh, poi per quanto riguarda la zona per esempio delle aree coltivate, noi siamo molto al di sopra della media, quindi noi abbiamo un 32% del territorio che è coltivato rispetto a un 24% della media europea, è il quinto paese, abbiamo un 40% in più di area coltivata, quindi anche questa, quando noi pensiamo comunque a un'area, a un paesaggio verde, comunque si potrebbe tenere in considerazione una zona che è comunque vegetata. Un verde umano, un verde. Poi possiamo confrontare per esempio il grassland, quello che è la zona di prato, che in parte è pascolo, in parte è prato naturale. E qui abbiamo un po', avremo un 25% in meno rispetto alla media europea. Però se lei pensa alla differenza del paesaggio e anche delle condizioni climatiche dell'Italia rispetto all'Irlanda, se ne fa una ragione, certo. In maniera abbastanza evidente. E per quanto riguarda la parte invece artificiale, siamo sopra la media europea perché abbiamo un 8% del territorio. In valore assoluto siamo la terza superficie nell'ordine, terza superficie artificiale nell'ordine dei paesi europei. Quindi qui non parlo di percentuali, parlo di... Assoluti, di numeri assoluti. Sì, parlo di 23.000 chilometri quadrati. Cioè 23.000 chilometri quadrati su 313.000, che se non ricordo male dalla scuola, la superficie complessiva dell'Italia. Fanno questo 8%. Fanno questo 8%. Questo 8% è arrotondato. Ma certo, che è il territorio, di fatto l'urbano, la parte strettamente, se ho capito bene. No, è urbano. urbano più la rete stradale. Urbano più rete stradale. Più rete stradale o anche ferroviaria. 23.000 chilometri quadrati. Dei trasporti. Ecco, le chiedo un'ultima cosa. Qui abbiamo parlato in generale di dati assoluti. Questo è un report che viene presentato periodicamente. Ecco, esiste, chiaramente è anche prezioso per costruire una serie storica. Sì. E credo che lo diventerà sempre di più alla luce, diciamo, delle trasformazioni o dei cambiamenti, peraltro anche questi su scala storica, climatici. Ci sono delle indicazioni già su questo fronte o... Diciamo che dati dettagliati non ci sono dal punto di vista delle serie storiche. Cioè questa, se io mi riferisco prettamente a questa rilevazione, abbiamo un quadro comparativo spaziale, cioè geografico. Un quadro nel tempo, bisogna costruirlo. È tutto, grazie a Gigi Donelli per questa intervista ad Alessandra Palmieri, ricordiamo team leader del gruppo di ricerca Lucas sulla copertura e uso del suolo in Europa. L'appuntamento con l'altro pianeta è per la prossima settimana alla stessa ora. Buon proseguimento d'ascolto da Laura Bettini.